Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Come sempre vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Ogni commento e suggerimento o riflessione ben gradita. Allora, dal Corriere della Sera, cronaca di Milano del 6 ottobre 2009, quindi pochi giorni fa, leggo un titolo che mi inquieta: in 500 dallo psicologo di quartiere. Vado a leggere meglio l'articolo e trovo un'iniziativa molto interessante, direi molto intelligente, studiata dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che ha subito trovato il benvenuto e l'accoglimento da parte della Federfarma, vale a dire l'associazione, la federazione che raggruppa le farmacie. Ci troviamo a Milano e che cosa accade? Accade che questi psicologi, che sono disseminati in varie farmacie di tutta Milano, prestano il proprio consulto, il proprio servizio, la propria disponibilità all'interno di queste farmacie. Il costo è a zero o quasi per il comune, mentre invece la parcella dello specialista è a carico della farmacia. Per cercare di capire di più di questa iniziativa, io ho chiamato a interloquire con noi il professor Enrico Molinari, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ma anche professore di psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professor Molinari. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E poi abbiamo anche l'esperienza diretta sul campo, se dire, del dottor Jacopo Casiraghi, che è uno degli psicologi che ha prestato la sua opera prima in una farmacia di Viale Padova, adesso si sposterà a Piazza Insubria qui a Milano. Buongiorno dottor Casiraghi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, professor Molinari, partiamo da lei. Ci spiega il motivo di questa iniziativa, cioè di cosa vi siete resi conto che il milanese ha bisogno storicamente, diciamo proprio così, per la frenesia che contraddistingue questa città, di un pronto intervento, un pronto soccorso, sarei dire, in uno dei luoghi più abituali, quello che una volta nel centro dei paesi era un po' proprio la vita, l'anima, la farmacia. È così? È così. L'idea è partita dalla possibilità di inserire nei nostri quartieri degli psicologi. C'è il vigile di quartiere, c'è un'assistenza sociale di quartiere, e abbiamo parlato quindi con l'assessore Landi di Chiavenna di uno psicologo di quartiere, e abbiamo trovato le farmacie, prima dell'azienda farmaceutica milanese ed ora di Federfarma, disponibili a fornire anche questo nuovo servizio, che si inserisce in un contesto di vicinanza ai cittadini da parte dei farmacisti. Ecco, ma non si corre il rischio che è un'operazione mordi e fuggi, vale a dire un palliativo anziché essere una cura strutturata, no? Di cui molto spesso si ha bisogno, cioè di un percorso. Allora le chiedo, innanzitutto, appunto, se condivide questa riflessione, se poi dietro non ci sia una legittima, ci tengo a dirlo, legittima ricerca anche, diciamo così, di pazienti da parte degli psicologi milanesi. Non ci troverei nulla di male. No, per ora non abbiamo ravvisato questa possibilità di raccogliere pazienti per gli psicologi. Abbiamo studiato una modalità di intervenire in problemi che magari sono all'esordio e possono essere affrontati con 3, 7, 8, 10 sedute, perché dobbiamo sfatare anche la mitologia che i trattamenti psicologici siano infiniti, che siano lunghi. Ci sono alcune questioni che possono essere affrontate in tempi relativamente brevi. Per le problematiche più importanti, più impegnative, abbiamo un elenco di servizi territoriali del Comune, delle ASL, e noi inviamo le persone che non possiamo direttamente seguire in farmacia presso le strutture preposte. E questo è molto corretto. Le chiedo questo, professor Molinari: quali sono a suo giudizio le problematiche principali con le quali si trovano a fare i conti i milanesi che, così come entrano dal panettiere o entrano in un ipermercato, entrano casualmente o meno, in una farmacia e si trovano di fronte uno psicologo. Ma intanto noi abbiamo messo degli avvisi nelle farmacie, i farmacisti possono prendere gli appuntamenti per noi. E solitamente le persone che sono venute in questi primi 5 mesi di sperimentazione sono persone che molto probabilmente non sarebbero andati di loro spontanea volontà nei servizi dell'ASL, dei servizi della sanità pubblica, ma neanche da un terapeuta privato. Sono una fatta di bisogno che non trova ancora una risposta. Quindi sono pazienti che devono anche loro stessi riconoscere quelle che sono le loro necessità e le loro difficoltà ad affrontare la vita di tutti i giorni. Bene, io passerei a questo punto all'esperienza di Jacopo Casiraghi, che ha già prestato il proprio servizio presso una farmacia e ora sta per spostarsi in un'altra. Allora, che tipo di pazienti, clienti, persone lei si è trovata di fronte nel suo operato? Dunque, intanto vorrei precisare che proseguo anche l'attività in Viale Padova e Via Pieri, Piazza Insubria e aggiungo anche Piazzale Martini. Allora, già che ci siamo, salutiamo anche le farmacie. Esatto, perché so che ci tengono molto, il loro contributo è prezioso, perché comunque danno una mano a segnare gli appuntamenti e a, come dire, ricordare agli utenti che c'è anche questo servizio. Assolutamente. Arriva un'utenza molto particolare, perché in effetti noi tocchiamo proprio la pancia della cittadinanza, quindi siamo vicini alle persone, è un servizio di prossimità, a me piace chiamarlo infatti psicologo di prossimità, proprio perché è percepito informale, gratuito e comunque molto professionale, perché noi sia nella gestione degli appuntamenti che nella metodologia utilizzata cerchiamo di dare e abbiamo come questa finalità. E le persone che arrivano persone con una sofferenza generica, persone che stanno male per qualche motivo, e forse l'occasione per quello psicologo è anche cercare di capire il motivo per cui stanno male. Ecco, una curiosità: sono più uomini o più donne? Sono più donne. Sono più donne, anche se in quanto poi io sono uno psicologo uomo, incontro anche abbastanza uomini. Il rapporto di solito è di 1-3, ecco. Ah, addirittura, ecco, ma come mai? Questo come se lo spiega? Ma c'è molta teoria che un po' dibatte a proposito. Dibattiamone un secondo insieme per capire anche noi. Intanto noi cerchiamo di coprire tutti quanti gli orari, anche il sabato mattina. Però alcune donne non lavorando solo part time o avendo magari un po' più di tempo libero riescono ad accedere al servizio più facilmente degli uomini, che a volte finisco di lavorare tardi. Ecco, questa è una prima spiegazione. La seconda cosa, magari un pochino di ritrosia in più da parte degli uomini, sì, che magari credono di essere un po', come dire, immuni dalla necessità e il bisogno di parlare con uno psicologo. Confrontarsi, comunque aprirsi, anche certo, confidarsi in alcune cose è come dire, non è qualcosa di semplice. E forse alcune donne sono già un po' più propense a fare una cosa di questo tipo, anche se qui onestamente sulle differenze di genere oggigiorno non vorrei dire qualcosa. Certo, assolutamente. Ecco, un'altra cosa mi ha colpito molto di questa iniziativa, anzi intanto le chiedo se ci fosse un sito internet, un numero di telefono, lo faccia presente, così almeno i nostri radioascoltatori possono appuntarselo, ma una cosa mi è piaciuta molto, questa è un'iniziativa che proseguirà anche con psicologi che parleranno inglese o spagnolo, ormai siamo una società multirazziale e multiculturale, mi pare un aspetto interessante questo. Sì, decisamente. Le consulenze in lingua servono perché in effetti, poiché ci siamo posizionate in zone di confine dove arriva un'utenza molto variegata, è giusto dare anche questa possibilità. Io ho incontrato delle persone che venivano a colloquio non italiane, in realtà poi i colloqui li abbiamo svolti in italiano perché erano comunque persone che lavoravano in Italia già da qualche anno, certo, e per loro è stato molto utile perché andiamo proprio a occupare quella nicchia fra l'ASL e gli studi privati che questo tipo di utenza non, alla fine non raggiungerebbero mai. E quindi, come dicevo, giusto per chiudere poi il discorso che stavamo facendo prima, al di là della sofferenza delle persone arrivano poi degli stati depressivi, arrivano delle sindromi d'ansia, arrivano tutta una serie di problematiche molto differenziate che sono decisamente importanti da trattare proprio al loro esordio. Ecco, io direi di finire con un'informazione di servizio, se l'abbiamo, se possiamo renderla, non so se può rispondere lei o il professor Molinari, cioè un sito internet da consultare o un numero di telefono da dare per chi volesse sapere ad esempio quali sono le farmacie più vicine alla propria via o quali sono le farmacie che erogano questo servizio. No, non c'è un numero centralizzato e sono le farmacie diffuso sul territorio della città di Milano. Bene, questo del sito lo stiamo allestendo e siamo quasi pronti. Benissimo, molto interessante. Allora mi raccomando, seguite questa iniziativa perché oggi diciamo così che dello psicologo avremo un po' tutti bisogno. C'è questa maniera soft di conoscerlo e approcciarsi a questo professionista, quindi utilizziamo questa opportunità. Io ringrazio il professor Molinari e il dottor Casiraghi per i loro interventi, dico grazie in regia a Filippo Regi, in redazione ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.